novembre, non solo ad Atene ma anche in altre città. Intanto ciao Tasso, ci vuoi dire un po' come è andata questa manifestazione ad Atene? Sappiamo che c'è stata una partecipazione insomma abbastanza significativa. Dovrei dire che non era tanto significativa, perché queste manifestazioni di solito raccolgono migliaia e migliaia di persone. Questa volta, grazie al governo nuovo di destra, perché è un nuovo di destra che hanno costruito i socialisti tramite i banchieri e deputati dell'estrema destra, hanno riempito il centro di Atene di poliziotti, poliziotti ad ogni angolo, per far paura alla gente, per non far sedere alla gente. Comunque è scesa tanta gente per strada, la manifestazione è stata imponente, però non erano le migliaia di persone, cioè all'anniversario del Politecnico c'erano sempre 500.000 persone, 1 milione di persone, eccetera, no? Questa volta eravamo molto, ma molto meno. Altro ci sono stati. Didi. Pronto? Sì, ci sono, continua. Sì, volevo dire che ci sono stati dei scontri non molto forti, ci sono stati dei scontri al Parlamento, poi ci sono stati all'ambasciata americana, la polizia, visto che era proprio in forza, proprio una cosa incredibile, non abbiamo visto tanta polizia nel centro di Atene, sembrava una città praticamente occupata dalle forze dell'ordine, una cosa vergognosa. E poi ci sono stati dei scontri alla centrale della polizia a Corso Alessandra. Ci sono stati diversi arresti e tante persone fermate. Senti, ma io ho letto che a Salonicco, a Patrasso e ad Atene, perlomeno solo le notizie venivano solo da queste città, ci sono stati anche arresti preventivi, quindi già la mattina. Sì, ad Atene ci sono stati arresti preventivi, fermi preventivi, cioè quando la gente si presentava alla manifestazione con gli zaini, con le maschere, perché qua ci riempiono sempre di gas lacrimogeni e di conseguenza tutta la gente si porta anche una maschera per la manifestazione, li prendevano e li portavano alla questura. A Salonicco c'è stato anche una cosa gravissima, c'è stato l'intervento per la prima volta all'interno dell'università, hanno arrestato della gente all'interno dell'università per la prima volta grazie alla nuova legge dei socialisti che hanno ritirato l'asilo dalle università praticamente, con la legge, no? Cioè hanno fatto la legge e non è più valido l'asilo all'interno dell'università. E c'era stato il presidente delle facoltà dell'università il preside delle facoltà dell'università di Salonicco, il quale in mezzo ai lacrimogeni urlava fuori la polizia, però intanto loro erano entrati dentro, hanno arrestato anche la gente lì dentro. Ma come mai sono entrati dentro? Cioè c'erano degli scontri al di fuori, di solito i giovani che tirano pietre alle forze dell'ordine si radunavano davanti all'università, e fino all'anno scorso c'era l'asilo e di conseguenza potevano entrare nei giardini, la polizia non poteva entrare. Questa volta invece è entrata all'interno della dell'università e c'è stata questa scena che vi ho raccontato. Senti, io ho letto anche di un ferito grave ad Atene. Sì, dicono che sì, c'è stato un ragazzo che aveva tutte e due le gambe rotte, l'hanno portato all'ospedale. La polizia dice che mentre stava per scappare è caduto in un fosso. Però c'hai qualche dubbio? Tanti dubbi, perché lì c'erano degli scontri, lacrimogeni da tutte le parti, fuochi eccetera eccetera, non riesce a vedere avere, non lo so, una fotografia a un'icona ben precisa, e di conseguenza non sappiamo come sono andate le cose. Senti, tu hai detto appunto che rispetto agli altri anni c'è stata una partecipazione molto inferiore, no? Di manifestanti, sia pure comunque determinati, e sì. Dici che questo era dovuto anche a questa presenza massiccia. Io ho letto 7.000 poliziotti nella sola Atene, fermate della metropolitana chiuse, quindi insomma un clima certamente di terrore. Proprio quello ha fatto paura alla gente. Ma tu pensi che ci sia anche, diciamo, ecco, per esempio rispetto a questo governo che non è di salvezza nazionale, che non è tecnico? Ma che perché... salvezza nazionale? No, aspetta, fammi finire. No, lo chiamo di salvezza nazionale perché noi ce l'abbiamo tutto tecnico, no? Come saprai, voi invece ci avete anche politici del vecchio governo, fra rimasti parecchi ministri, no? Cioè c'è un qual è l'atteggiamento di una popolazione che comunque fino ad oggi è stata molto determinata negli scioperi e nelle proteste? Secondo te c'è anche una, non lo so come chiamarla, una certa rassegnazione? Vedi anche, cioè, come valuti un po' il clima che si respira oggi in Grecia rispetto a una possibile opposizione anche a questo governo e alle sue misure? Il clima è un po' di attesa, ma soprattutto c'è stato uno shock nello shock degli ultimi anni, perché nessuno si aspettava in un paese democratico come la Grecia, che è uscito da un'esperienza di 7 anni di dittatura militare, avere 4 ministri della destra estrema, insomma. Quelli del Laos. Hanno fatto... Com'è? Quelli del Laos. Certo, ma quelli del Laos, ma parliamo di persone che erano picchiatori di destra all'interno dell'università, uno è ex agente dei servizi segreti, eccetera, eccetera. E in quale paese democratico succedono queste cose qua, scusate? In Italia? In Italia. Ma in Italia avete un governo tecnico, dai. Abbiamo il governo tecnico, ma ex picchiatori fascisti ce l'abbiamo avuti nel governo fino a 3 giorni fa. Sì, quello è vero. Sì, quindi non mi fare queste domande. Ma cose allucinanti, ragazzi. Ma noi abbiamo avuto una dittatura militare, è per vero. Crollarsela da addosso, beh, lì sono state persone morte, e poi ti mettono... Ma non si capisce un bel niente, guarda. Io che ho l'occasione di conoscere diversi ministri del Partito Socialista, i quali erano da studenti, hanno partecipato al Politecnico, erano nel Comitato Centrale dell'FE, che era l'organizzazione degli studenti contro la dittatura, eccetera, eccetera, e sti qua come cacchio hanno fatto? Hanno fatto un governo insieme alla destra, all'estrema destra. Senti, ma adesso per esempio la sinistra parlamentare, il QQE, Syriza, che cosa dicono? Continuano a chiedere nuove elezioni? Ma certo, il QQE chiede di sedere tutti per strada e di organizzarsi per abbattere questo governo, certo. Sì, ma insomma, viste le recenti notizie rispetto per esempio all'atteggiamento del QQE nell'ultimo grande sciopero generale, cioè io colgo una contraddizione, mi riferisco a quando per esempio insomma, hanno affrontato non solo gli anarchici ma anche gente così di tutti i tipi che cercava di arrivare sotto al Parlamento, l'hanno affrontati. Ma questa è una cosa vergognosa, ragazzi, è una cosa che ha lasciato l'amaro in bocca a diverse persone. E io quel giorno lì ero andato, era il 19 di ottobre, ero andato la mattina alle 9 alla piazza, che chiamava il QQE alle 9 praticamente, e ho trovato tutta la strada intorno e davanti al Milite Ignoto, che era occupato dal corteo del Partito Comunista Greco. E praticamente quando gli dicevamo perché state tutti qua, non state, però bisogna anche dire che tutti riuscivamo a passare in mezzo a loro, a chiacchierare, eccetera, eccetera, no? Io che conosco tante persone di loro, ho chiacchierato dicendo ma perché state tutti qua, no? non, dove si metteranno gli altri che verranno più tardi, eccetera, eccetera. Poi quando è arrivata tantissima gente c'è stato sto scontro, perché loro non facevano passare l'altra gente in su, e capisci bene che soprattutto i giovani si incavolano, perché ti dicono cosa fanno loro, difendono il Parlamento, perché l'accusa al Partito Comunista Greco è stata questa qua, che ha fatto il lavoro della polizia praticamente. Sì, insomma, pure questa è una cosa che ogni tanto succede pure qui da noi, insomma, più che ogni tanto. Senti, invece, quali sono adesso comunque le prossime mobilitazioni, soprattutto rispetto al movimento Demplirono, no? Cioè rispetto a questo momento di un po' di riappropriazione di salario, diciamo così, che questo movimento... Sì. Dimmi. In questo momento c'è una forte organizzazione, cioè praticamente è la gente che si auto-organizza, no? Perché hanno messo la tassa sugli immobili, praticamente la fanno pagare tramite l'Enel greca, e di conseguenza se tu non paghi il conto corrente dell'Enel ti tagliano la luce. E questa è una cosa vergognosa, la gente si è ribellata e in questo momento si organizzano tramite i comuni o tramite organizzazioni di base per non pagare questa tassa che è orizzontale praticamente su tutta la gente, anche su gente che non ha da pagare. Quindi poi io so che comunque ci sono anche forme, diciamo, organizzate di riallaccio della corrente quando viene staccata. Sì, hanno detto i sindacalisti dell'Enel che loro prima di tutto non taglieranno la luce alla gente che ha problemi economici, perché immaginate che in questo momento ci sono 1 milione di persone disoccupate. Questa gente qua come fa a pagare? L'anno scorso c'erano 600.000 persone che non riuscivano a pagare neanche il conto corrente della luce. Soltanto il conto corrente della luce. Quest'anno hanno messo sull'ultimo conto hanno messo anche sta tassa sugli immobili, facendo degli errori incredibili, cioè hanno messo più metri quadrati ai vari appartamenti, hanno messo più soldi perché la zona poteva essere di 1.000 euro, invece l'hanno messa a 1.200, 1.300, e così hanno mandato dei conti sui 600, 700, 900 euro ad ognuno per una casa di 70, di 80 metri quadrati. E come farà a pagare? Quanto il salario diminuisce in continuazione, quanto ha dei problemi perché è disoccupato, o sempre in una famiglia ci sono 2 o 3 persone disoccupate, lavorava il marito e la moglie, adesso uno dei due è disoccupato. E come fanno a pagare queste cose qua? Senti, la tua sensazione è che comunque queste forme, anche le assemblee popolari, anche le spese ai supermercati, insomma, tengono, si stanno estendendo, c'è comunque una forma di resistenza che prosegue? C'è, e questo ci sarà sempre di più, dal momento in cui la destra è entrata al governo, guarda che si sono incavolate diverse persone. Pensa che al Parlamento questo governo qua non ha avuto la fiducia di due deputati socialisti, e tutte e due hanno detto che noi ci vergogniamo di votare un governo nel quale ci sono 4 persone di estrema destra. Certo, va bene Tasso, noi ci risentiremo sicuramente. Buongiorno, statemi bene. Nasegala. Ciao Tasso. Nasegala che sì. Ciao, grazie.